Preparate la colazione e mangiate tanto, perché stasera ceneremo nell'Ade! 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Piazza noi la lasciamo più pulita di come l'abbiamo trovata, a differenza di altre zecche che magari non dicono le parolacce ma che sfasciano vetrine e lanciano uova ai poliziotti. Noi stiamo coi poliziotti, coi carabinieri. Fascisti, lepenisti, oh, razzisti. Che palle, ragazzi! Nessun disagio oggi a manifestare con Casa Pound. Mussolini era un grande uomo, ha fatto grande anche l'Italia. Fascisti sono gli altri, il governo sono fascisti, anche se siamo di sinistra. Lei che dice di essere la sinistra della no, no, mi imbarazzano quelli che quando fanno manifestazioni ce le fanno a volto coperto e sfasciano macchine, sfasciano le tube. Quelli mi imbarazzano. Pound con voi oggi, voi sì, non fa dispiace. Niente, ma sono brave persone. Io le ho viste sfilare, erano brave persone, i venti centri sociali rompono su tutto, picchiano e basta. Insomma, anche il nostro Benigni lo diceva, eh. Hitler un ponte, una scuola l'avrà pure costruita anche lui, brava persona. Va bene, cari italiani, questo è 24 mattino, eh? Sono le 6:32 minuti, è due giorni che iniziamo così come a Radio Padania. Mi sto preoccupando un attimo, però. Ma lo facciamo solo in onore di una delle due ospiti di oggi, per questo. Vabbè, senti che note soavi. Dai, sveglia, sveglia italiani! Su, sono le 6:32, razza di debosciati che non siete altro, sempre lì a prendervela con comodo. Mentre qui con Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, siamo pronti con la nuova puntata di 24 mattino. Voglio subito salutare Vincino, perché il nostro Vincino, buongiorno, come stai? Bene, ma un sciuri per me non me lo fate. Un sciuri. Guarda, adesso facciamo come le radio libere degli anni 70. Vuole sciuri, come ce la vuoi cantare tu intanto? Sciuri di tutto un anno, com'è Vincino? Io sono stonatissimo. Però. Vabbè, è meglio, canta se sei stonatissimo, così ti... No, poi scappano tutti. Scappano tutti. Tu ti senti un po' uno di Casa Pound? Guarda, è una cosa, guarda, allora... Uno, stiamo a parlare di una manifestazione quasi inesistente, cioè se non c'erano quelli di Casa Pound, erano invece di essere 10.000 erano 5.000. Ma come, ha detto che erano 100.000? Ma erano 100.000, certo, come quando quello Vescovi diceva che erano 2.500.000, dai, ed erano invece 30.000, insomma, se c'erano. Ma tu c'eri in Piazza del Popolo, sei andato a vederli? C'erano le gabbie, era tutta ingabbiata quella cosa là. Avevi paura di rimanere. Allora guarda Vincino, ti presento una che c'era e quindi li avrà contati tutti, è una anche molto imparziale, ci dirà una cifra precisa, è la nostra, com'è che ce l'abbiamo? No, non Shuri, ce l'abbiamo per presentare la nostra. Cristina Croce. Ah, va bene, allora la presentiamo così. La nostra Aurora Lussana. Aurora, che sei svenuta? Tu volevi Ramazzotti, sarà Aurora invece. Sì, ridatemi Ramazzotti. Perché non ti piace questa? No, vabbè, tu sei per i popoli, l'indipendenza dei popoli, l'orgoglio dei popoli. Vabbè, allora ti mettiamo questa. No, senti un po'. Meglio il coro del Nabucodonosor, non so. Vabbè. Vincino, va bene questa versione? Però giustamente, come indipendentismo, noi siciliani diamo i punti a tutti, eh. Ah, ecco, cioè, siamo appunto gli unici che abbiamo fatto un po' di lotta indipendentista vera, armata, là, nel 44. Vabbè, non tirare dato fuori le armi, per favore. No, ma infatti ci hanno dato l'autonomia per questa. Dimmi che t'ha messo in galera anche per questa. L'autonomia di spesa vi hanno dato. Eccola là, l'autonomia di spesa. Allora, anche i soldi che non avete. Eccola là. Vabbè, allora ci hanno arrestato il capo degli indipendentisti. Sì, no, ma non far finta di non sentire. Ha detto che vi hanno dato l'autonomia di spesa, Vincino. È degenerata. La politica degenera facilmente, no? Come dire, l'altro ieri c'erano tutti degenerati là per la sbagliata della Meloni. Sbagliata? Qualcuno non ha detto, non cominciare. Ma sì, maggiorato della sguaiata la Meloni. Bella cosa, guarda. Com'è che faceva? Questa era la Meloni. Rifammi il comizio della Meloni. Giorgia Meloni. Poi c'è il vaffanculo di Salvini, altro. Ma che bordello c'è stamattina? È così, è Vincino, è irrefrenabile. Allora mettiamo ordine. Basta. Apriamo il Parlamento, dai, su. Apriamo il Parlamento, che voglio capire da Aurora Lussana com'è andata. Rimettiamo ordine col va pensiero. Vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi. Grazie. Allora, Aurora Lussana, quanti eravate? Tanti. Una piazza vitale, popolare, popolana, a differenza di quello che dice Vincino, che non c'era piazza del popolo, vi assicuro. Che c'era un movimento molto articolato, c'era la Lega, ti rifaccio la domanda. Quanti eravate? Vi siete contati? Ascolta, ero lì dalla mattina e saluta qui, saluta di là. Adesso non è che io sono né la Digos né la Questura di Roma, allora ti direi però che un 50.000 ce n'erano. 50.000? Sì. Ma ho capito, ma Vincino, dobbiamo stare a discutere di quanti eravamo, ma chi se ne frega? Allora lui è probabilmente da Roma. Vabbè, Vincino, un attimo, cosa c'è? Dimmi Aurora, è così Vincino, si è svegliato. Allora Vincino si vede che così è rimasto un po' turbato da questi giovani di Casa Pound che sono scesi con passo marziale dal Pincio, da Via Valadier, hanno fatto questa entrata trionfale alla fine della manifestazione, però io ti dico che ce n'erano di ragazzi di Casa Pound, ma insomma erano una minoranza, non sono stati loro i protagonisti. Poi per criminalizzare la piazza si inventa addirittura sta roba qui delle gabbie. Le gabbie erano da un'altra parte, le ammesse per i centri sociali, mica capito, per una Vincino, Vincino, il vitalismo di quella piazza, te dovevi vederlo. Ma perché non sei andato anche a fare due o tre vignette? Potevi, secondo me, prendevi un elicottero come ha fatto Renzi, arrivavi lì lombrosianamente. Vincino, potevano esserci del materiale buono per te, secondo me. Esatto. Non serve niente. Aspetta, Vincino, allora, perché non sei andato? Pronto? Vincino, sento male. No, ma che senti male? Ma siamo qua, no? No, non mi sento male. Ho altre cose da fare sabato pomeriggio che andare a perdere tempo là, a assolutamente. Non, e allora parla mia, allora ti leggo. Poi aspetta, poi sentendo e guardando attraverso la televisione non ho perso assolutamente nulla. Nulla. Infatti non capisco com'è che da due giorni stanno a parlare ancora di questa cosa qua. Ma infatti la vera tematica che riguarda la Lega, caro Vincino, ma soprattutto cara Aurora Lussana, è un'altra. Tosi, lo state cacciando, questa è la verità. Ormai se ne va Tosi. Questo ieri ha detto, sai cosa ha detto Vincino? Ieri in via Bellerio mi hanno fatto una porcata. Vincino, capisci? Ma scusa, perché la Lega Veneta si riunisce a via Bellerio? Riuniti tutta la Lega, il Consiglio Federale, come si chiama? Dai, il Consiglio Federale. Consiglio Federale. Tutti i vertici, è stato convocato lì. È l'organo deliberante, statuto, ha deliberato e uno si adegua. Si adegua, oppure? Senti Salvini, si adegua, ecco, così parlò Salvini. Abbiamo chiesto a tutti, per coerenze, anche questo è stato votato, se non ricordo male, da tutti, tranne che da Flavio Tosi, la scelta dell'unica tessera, ovvero sia se sei militante della Lega, sei militante della Lega, punto. Hanno votato tutti d'accordo, tranne Tosi, tranne uno, Vincino. Proprio quello lì, uno a caso. Quello che a piazza del paese era circondato da quelli di Casa Pound, poveretto. Ma è ossessionato da quelli. Ma dai, Vincino fa satira. Allora leggiti Ezra Pound. Aspetta. Allora, questo venerdì fanno un bel incontro a Casa Pound, una roba meravigliosa. Ah, fantastica. Ci sarà dentro il professor Tarmo Kunnas, professore di storia della letteratura, penso in Finlandia. E chi non ha a casa due o tre libri di questo professor Vincino? Eccola, che almeno si rinnova, perché visto che Aurora, no? Ma Vincino fa satira nei confronti di Casa Pound. Ma Vincino fa satira, cioè bella questa cosa, cioè secondo te Tosi l'hanno circondato con quelli di Casa Pound così? Assolutamente. Ma no, ma vai, era lì con i militanti del Veneto, ma pelati da ogni lato là intorno. Ma dai Aurora, ma scherza, Vincino fa satira, su, fagli dire queste cose, va bene così. Però vabbè, la questione è molto semplice. Aurora Lussana aveva proposto qui, per chi non si adeguava al volere leghista, una ceretta a caldo. Tu ancora? No, io ho detto chi farà vincere o vorrà far vincere Lady Like, quella che deve andare sempre dall'estetista perché ci tiene alla ceretta, applicherei legge del contrappasso o la ceretta a caldo. La ceretta a caldo. Quindi, capito Vincino, pare che la ceretta a caldo faccia molto male. Tosi, niente. Sì. Ma avercene di Tosi, ragazzi, avercene. Ma che avercene di Tosi? Avercene. Vabbè, ma Vincino, in giro per Verona, va in giro per Milano, e avercene di sindaci come Tosi. Cosa vuol dire va in giro per Milano? No, siamo passati a Milano, un grande sindaco. A Milano. Sì. Vabbè Vincino, ma cosa ti dà fastidio della Lega? Fammi capire bene, cos'è che ti dà fastidio? È insopportabile la votezza di messaggio politico che c'era, era tutto, cioè, poi arriva secondo su Raffanculo, insomma, praticamente, no? Era solo niente. Il vuoto totale. Infatti è questo, stravincere la stragrande elicottero Renzi, il quale via. Ecco. È l'unico che ha un poco di visione politica, circondato da imbecilli pure lui, bisogna dire, perché quando il suo ministro, quello là, ex cooperative, dice gli esudati sì è un problema, ma però no, ma io idiota, era l'unica cosa che dovevi risolvere. Poletti. Vabbè, adesso arriviamo, ma adesso parliamo anche un po' del PD, che di beghe ne ha. Comunque voglio ricordare, ci arriva un messaggio, ci arrivano tanti messaggi, chi dice Salvini è l'ultima speranza, chi ci dice anche Hitler riempiva le piazze, quindi abbiamo fatto un salto di qualità, cara Aurora, da Mussolini a Hitler. Ma poi soprattutto c'è un messaggio, uno dei migliori, Enzo da Latina, che fa così: Aurora, Aurora, Aurora, e lo scrive 9 volte, adesso fammi, abbi pietà, dal tuo aspirante amante Enzo da Latina. Ah, è vero, Latina, vero, sì, vero, tu, vero. Sei, tu sai che se vai a Latina hai un amante pronto, Enzo, Enzo. Così, a scatola chiusa puoi comprare. Mi chiedono anche Marco di che segno zodiacale sei, caro. No. Questa settimana faccio gli anni e quindi urca, quando? Sì. Sono nata l'8 marzo, domenica, no? Domenica, la festa della sì, donna, vabbè, vincino, sì. Vincino, almeno vuoi fare gli... Salvini è nato il 9 marzo, se vi interessa. Vabbè, se ci interessa. Vincino, quindi l'8... Assolutamente. Vuoi... Almeno gli auguri si possono fare. No, non si può dire. Quanti anni fai non si può dire, dai. Troppe. Poi si sposa, si sposa a giugno. Sono da buttare via, ragazzi. No, il motore va ancora bene, ma la carrozzeria ormai è andata. Scusa, me la traduci in maniera che capisca anche Vincino? No, così, questa metafora automobilistica, nel senso, c'ho un'età ormai per una donna che, per carità, il motore va ancora bene, ma ormai la carrozzeria... Ecco, mi traduci mancata. Questa metafora del motore che va ancora bene? No, cioè, nel senso che la macchina va ancora, però è un po' conciata, quindi sono verso la soglia dei 40, cosa vuoi? Un po'. Dai, non fammi vabbè. Fare autoanalisi. Vabbè, no, è perché caniana. Vincino a questa teoria, la Lussana, siccome ormai sono da buttare via, mi sposo. Cioè, che voglio dire, il suo quasi marito sarà felicissimo di sapere che la prende così. Però, Vincino, sì, hai visto Renzi in elicottero? Sì. E allora? No, poveretto, guarda che... Tu hai presente l'elicottero col cattivo tempo? Che cosa fai? Vai su. Non ho mai preso un elicottero col cattivo tempo. No, io una volta l'ho preso un elicottero. Ero... Vabbè, insomma, ho preso un elicottero una volta. Vabbè, non ce lo puoi dire. No, non so dove. No, ma ti fa scandalo il fatto che il Presidente del Consiglio si sposti in elicottero? Assolutamente, no. Quello, elicotteri li facciamo in Italia, per cui... No, perché i grillini se la sono presa con questa cosa. Ogni tanto lui va sempre in treno, ogni tanto diceva, stavolta andiamo io, lui ci ha trovato il tempo di schifo, per cui faceva delle cadute di mezzo chilometro. Il terrore proprio. Sì, ma ho capito, no, ma non mi hai seguito. Quelli del Movimento 5 Stelle si sono arrabbiati. Vabbè, ma quelli là che devono fare, insomma, pure loro, altri che non hanno nessuna idea politica di nessun tipo, nessuna visione, no, come dire, per cui se la prendono con le piccole stupidaggini. Ah, no? Va bene così. Vabbè, oggi sei tenero, dai, dobbiamo andare al traffico, sei tenero oggi. 24 mattino. Sono stufo di sentire sti pregiudicati in politica. Basta, ma perché non mettono una legge ancora anticorruzione? Chi è pregiudicato, chi è? Non fa politica. Salverebbe l'Italia. Solo questa piccola legge di merda salverebbe l'Italia. Che sento ancora parlare di sto Berlù. Ragazzi, ma ragionate un pochettino. Io non voglio destare sta gente qua a comandare l'Italia. Milano, io ho sempre ascoltato la tua trasmissione dalle 6:30 fino alle 7:10. Stranamente oggi la sto ascoltando alle 7:30, ma cioè, cosa che fai? Leggi i giornali, chi è che sbatta, Caro Milan, sarebbe ora che citassi anche le settimane di attesa della liberazione dei Marò, oltre a quelle dell'attesa per l'abolizione della provincia d'Arco. Ciao Alessandro, volevo soltanto dirti, digli al tuo amico Vincino che il suo amico Gino Paoli prende da 23 anni il vitalizio di più di 3.000 euro al mese, nonostante che in Parlamento ci sia stato soltanto un mese. Alessandro, ma perché mi devi far sempre sentire la Lussana? Ma che sei, innamorato? Non lo so, ma non senti le incavolate che dice? Dio mio, ma che male ha fatto questo paese? Che male ha fatto questo paese? La Lussana. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità. E niente, oh Vincino, la tua disfida. Vabbè, adesso Aurora arrivo anche da te, ma Vincino, la tua disfida con gli ascoltatori sul caso Gino Paoli continua, eh? Tu continui a difendere Gino Paoli. Assolutamente sì. Ma c'ha pure il vitalizio, è stato un mese in Parlamento, c'ha il vitalizio. Il vitalizio è una legge statale che ce l'hanno tutti. Ma che ce l'hanno tutti, tu ce l'avrai, tu ce l'avrai un vitalizio. È divertente per fare il deputato, non è che io che mi sono presentato due volte, no? E non ce l'hai fatta. Una con il radicale e l'altra con gli antiproibizionisti. Sì. Il mio scopo era questo qua, il vitalizio, l'impunità parlamentare. Ah, tu volevi l'impunità parlamentare. Ma perché? Perché rischiavi ancora? Ma sei stato già in carcere due volte. È apposta, dico, conoscendo la situazione, dico, ah, che bello, metto là. Volevi quello, tu miravi a quello. E poi là il vitalizio è una cosa stupenda. No, quello che veramente ha fatto pochissimi giorni, tre giorni, era Toni Negri. Toni Negri credo che non sia mai entrato neanche in Parlamento, tre giorni. Poveretto, smettila. Mamma mia, ma cosa devo fare, Vincino? Vabbè, fammi andare, che c'è? No, poveretto, era ricercato perché mica era uno stinco di santo, Toni Negri. Era un cattivo maestro, ma quanti ne abbiamo di cattivi maestri? Vabbè, quindi vitalizio anche a Toni Negri. Aurora Lulsana. Sì? Hai capito? Cosa consiglio a Vincino, visto che ieri sera... No, tu dovevi solo smentire, c'è un'ascoltatrice che ha detto, ti devi sposare, c'è un'ascoltatrice che ha detto che sono innamorato di te, smentisci. No, non c'è nessuna persona. Un po' meno schifata però. No, ma figurati. Un po' meno schifata però, perdonami, potrebbe anche succedere di innamorarsi di te. Non faccio nessuna famiglia, hai una splendida moglie, dei splendidi bimbi, no, ci mancherebbe. Vabbè. No, dicevo a Vincino, siccome ieri sera alla 7, su TG della 7, il Mentana ci ha raccontato che ormai la Lega vola nei sondaggi, 4 punti più del Malleolo Cavaliere, e allora gli consiglio magari di candidarsi in Sicilia con noi, con capito? Salvini. Sì, però questa io l'ho capita così, ieri avevo Maroni, caro Vincino, e gli ho chiesto anche di questi di Casa Pound, e lui mi ha detto, ma insomma la Lega è al top, è al 16%, al 17%, quindi perché dovremmo cambiare, capito? Cioè il concetto è per il consenso, va bene, che dobbiamo fare, Vincino? Ma tu ti immagini un ministro là, un governo Lega con i ministri di Casa Paolo? L'abbiamo già. No, ma dai, ministri. Abbiamo già avuto i ministri di Casa Paolo. Ma chi? I ministri dell'interno? Chi? Ma è 10 anni che c'è Casa Paolo. Tanti anni fa. Cioè proprio tu guardi al fascismo. Decenni fa. Senti, vabbè, oggi sei stato tenero con il Movimento 5 Stelle, vuoi aggiungere qualcosa? Ma hai mai chiesto solo questa storia dell'elicottero, no? Come dire, un'imbecillità, rompere le scatole, perché una volta quello si è preso l'elicottero, se l'è annoiato dei treni. Vabbè, insomma, ti faranno perché passare una buona giornata. Il suo piano era questo, era poi dopo arrivava sopra, perché dove cavolo posteggiava l'elicottero a Palazzo Chigi? Allora lui si faceva paracadutare, arriva là in paracadute, vedi che bella cosa, scendeva piano piano su piazza Chigi, là tutto il mondo avrebbe parlato. Renzi paracadutato, esattamente. Sarebbe stato bello. Vabbè, qua non abbiamo più tempo, non abbiamo parlato del caso De Luca, ma lo faremo magari la prossima volta. Aurora, intanto devo dire, è venuta a trovarci una collega del giornale di Brescia, vuoi dire da Bergamasca tu qualcosa, qualche messaggio? Ci sta guardando dall'altra parte? No, con i cugini bresciani, no. Cioè, ma non fare i cugini bresciani, vi accoltellate appena potete dietro la schiena. Un tempo Atalanta-Brescia, sì, no, ma il Brescia Calcio adesso vive anche momenti difficili, no? Solidarietà. Zacca in fila, intanto. Brescia è Serie B. Va bene, allora lasciaci con la ricetta, dici la tua ricetta. Comincia a arrivare un po' la primavera, siamo all'inizio di marzo. Oggi provavo a fare una quiche Lorraine alla bergamasca. Cioè? Sì, c'è una torta salata, provo con la pancetta coppata e un po' di formaggi, tipo formaggi de mut, stracchi tunt, una dadolata di formaggi tipici nostri, e facciamo una torta salata. È fantastico, perché dice una banale ricetta, ma non mette una parola in italiano. Cos'è lo stracchi tunt? Che cavolo! È un noto formaggio della Valbrembana. Notissimo. Valbrembana è notissimo. Stracchi tunt, va bene. Non ti contesto. Ciao, vi abbraccio, Aurora Rossana, Vincino, ciao. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso per poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Ci siamo allora, cari ascoltatori, siamo pronti qui a leggere i giornali, siamo anche pronti a raccontarvi che cosa. Oggi parleremo di scuola, lo faremo alle 8.15 perché arriva il decreto, anzi no, sorpresa, colpo di scena all'ultimo momento, ci sarà un disegno di legge, non un decreto legge, sulla scuola. Ci sono dei nodi, uno di questi è gli sgravi a chi frequenta le scuole paritarie. Attenzione, non si chiamano più private non esiste più come termine, ma paritarie, sgravi per chi frequenta le paritarie. E questo è un tema che ha frenato un po' Matteo Renzi e ha fatto propendere per il disegno di legge, quindi un iter parlamentare, non il decreto legge. Oggi in Consiglio dei Ministri parleremo di questo, come parleremo di quello che succede in Russia, dove sapete è stato ucciso il leader dell'opposizione. Domani Renzi andrà in Russia e anche noi avremo ospite Savik Schuster alle 8.40 per capire qual è il clima e quali sono le piste della polizia per questo omicidio. Andiamo però a leggere i giornali prima. È martedì 3 marzo, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre così: caso Telecom in borsa, spunta il dossier Orange, mentre il Corriere della Sera ha un'intervista, la prima volta che parla il neo presidente dell'INPS Boeri, età flessibile per le pensioni, questo è il titolo di prima pagina. A proposito di lavoro, meno disoccupati ma non basta, questo è il titolo della Stampa, sono i nuovi dati Istat, disoccupazione infrenata, così apre il Messaggero. Lavoro, segnali di ripresa, questa è l'apertura del Giorno, mentre Avvenire, lavoro avanti piano, frenata invece sulla scuola. Anche per il secolo XIX più lavoro l'Italia spera. La politica invece su Repubblica, De Luca, lite nel PD, Renzi, non cambio la legge Severino. E il Fatto Quotidiano, De Luca, candidato ineleggibile, pronta una legge ad personam. Dunque vedete che sul Fatto si smentisce quello che c'è di prima pagina su Repubblica. Mentre per Libero, sempre la politica, Bega Veneta, Salvini non perdona lo scontro all'interno della Lega. Il Giornale apre su Renzi, vola in elicottero, e da qui voglio partire a leggere qualche articolo, perché questo elicottero preso da Renzi ha destato in alcuni molto scalpore. Un elicottero per andare da Firenze a Roma che ha dovuto fare un atterraggio di emergenza, non si capisce se per problemi tecnici o per il maltempo, è comunque atterrato in provincia di Arezzo. Atterraggio d'emergenza per Renzi, e vabbè, c'è tutto l'aspetto del perché si è atterrato, se per il maltempo, se per un'avaria. Anche la Stampa, il Messaggero dedica un'intera pagina addirittura con le ipotesi, una spia accesa, la nebbia. Insomma, è stato giusto portare giù il velivolo. Devo dire che tutto è stato generato da Davide Grazzini, che è intervenuto da Un Giorno da Pecora su Radio 2. Davide Grazzini è il responsabile del centro sportivo dove è dovuto atterrare l'elicottero, a dire: il pilota mi ha detto che è stato costretto diritto a un atterraggio di emergenza. Ecco allora che è nato il giallo. Oddio, che succede? Poteva cadere l'elicottero del Presidente del Consiglio? E poi lì è nata la polemica con i grillini in testa a dire: eccolo qua, viaggia in elicottero. Problemi di sicurezza, fanno sapere a Palazzo Chigi. Il treno non è consigliabile. E oggi a questa tematica anche si dedica il buongiorno di Massimo Gramellini in prima pagina della Stampa. Il titolo è "Volare basso", scrive Gramellini. Un atterraggio d'emergenza imposto dal maltempo ha rivelato improvvisamente agli italiani che per andare da Firenze a Roma il Granduca Matteo usa l'elicottero di Stato. Lui, il campione dell'anticasta che da sindaco impazzava per la città gigliata al volante di una macchinina elettrica e da segretario del PD si faceva immortalare sul Frecciarossa come un Draghi qualunque. L'opinione pubblica si è subito spaccata. La maggioranza, composta da pendolari e sardine, d'auto, di metro, invoca per Messer Renzi un mezzo di trasporto più sobrio ed economico. Non sottovaluterei il baldacchino ecologico e in Italia i portatori non mancano mai. Ma esiste anche una minoranza, fiera della propria impopolarità, convinta che far viaggiare il capo del governo tra i cittadini significherebbe esporlo alla mercé del primo squilibrato e che la sua scorta sarebbe fonte di disagio per gli altri passeggeri. L'elicottero rimane una scelta infelice perché è lo scooter dei miliardari, la metafora di una distanza abissale dalla gente comune, e comunque in democrazia il problema è sempre la trasparenza. Obama sale e scende dagli elicotteri senza dar scandalo, dato che in America tutti sanno che quei velivoli fan parte del corredo presidenziale. Che Renzi ne usasse uno, invece, lo abbiamo scoperto ieri per caso. Come ogni caduta di stile, anche questa fa girare le eliche. Ma sostenere un condannato in primo grado alla presidenza della regione Campania le fa girare ancora di più. Ovviamente Gramellini mette insieme la questione e il caso De Luca, che vedremo tra poco. Comunque, paginate, paginate, il giorno, Libero, tutti su Renzi in elicottero. Vorrei andare al Corriere della Sera, dove per la prima volta parla Tito Boeri, 56 anni, economista alla Bocconi, è eletto presidente, scelto come presidente dell'INPS. Pensioni in anticipo, ma più leggere, a tutti il calcolo di quanto avranno. L'intervista di Enrico Marro la trovate a pagina 3 del Corriere della Sera. Intanto Boeri dice: ho avuto un'ora per decidere se accettare l'incarico di presidenza dell'INPS. Quanto guadagno? Beh, sapete che c'è stata la gestione prima di Mastrapasqua, che arrivava a accumulare cariche per credo 1 milione di euro. Lordi l'anno. Invece, dice Tito Boeri, all'INPS prenderò 103.000 euro lordi l'anno. È uno stipendio elevato, certo, ma pur sempre meno di quanto prende un dirigente di seconda fascia all'INPS e molto meno di quanto guadagnavo prima, ad eccezione del Festival dell'Economia di Trento, per il quale sono ancora il direttore scientifico. Ho sospeso tutti i miei lavori precedenti per questo incarico che mi ha già cambiato la vita. Le priorità da cui partirò: la trasparenza. L'INPS soffre di un'immagine esterna non buona, che non valorizza le sue qualità. La gente ci percepisce come coloro che decidono, invece noi applichiamo solo le leggi. Faccio un esempio: c'è stato giustamente lo scandalo sui piloti in cassa integrazione per 7 anni, ma non dipende dall'INPS, bensì dalle norme che regolano il funzionamento del fondo speciale trasporto aereo, che noi renderemo pubbliche. E poi annuncia questa novità Boeri: la qualità dei servizi si può migliorare con una forma organizzativa più efficiente. Lo faremo anche facendo partire finalmente l'operazione busta arancione. È una definizione in realtà superata, perché la lettera col conto contributivo, la stima della pensione, la manderemo solo ai lavoratori senza una connessione internet. Per gli altri ci sarà un PIN col quale accedere attraverso il sito INPS al proprio conto e simulare la pensione futura, secondo diversi scenari di carriera e di crescita dell'economia. Io non la voglio fare questa simulazione, perché ho paura di scoprire un bello zero come pensione futura. Forse evito di farlo. No, a parte le battute, Boeri annuncia dunque che ci sarà la possibilità per tutti di calcolare la propria pensione futura in base alla propria carriera, ai propri scatti, al proprio percorso professionale stimato. Ovviamente poi nessuno sa che succede nella vita professionale di ognuno di noi. Comunque Boeri annuncia anche: contro la povertà va introdotto il reddito minimo. E poi annuncia: cancellerò un po' di direzioni dell'INPS. 50 direzioni centrali sono troppe. Insomma, fa un po' il punto e annuncia qualche novità sul Corriere della Sera, intervistato da Enrico Marro a pagina 3. A proposito di soldi, è uscita la classica classifica dei paperoni miliardari. Volete sapere chi è quello che tiene più soldi al mondo, almeno ufficialmente? Il più ricco è sempre Bill Gates. Sono a pagina 14 del Messaggero. Bill Gates è il più ricco, precede il magnate messicano Carlos Slim. E poi al terzo posto Warren Buffett. Tra gli italiani la prima è Lady Ferrero, vale a dire la moglie di Michele Ferrero, con 23,4 miliardi di dollari stimati, mentre Bill Gates è primo a 72 miliardi, lui a capo della Microsoft. La prima italiana, appunto Lady Ferrero, è al 32esimo posto, eh. E insomma queste sono le cifre. Vabbè, cifre. Ho invece cifra un po' più piccolina, ma attenzione, sempre sul Messaggero ho letto, peccato che ieri, mannaggia, non lo sapevamo, l'avremmo chiesto ad Antonio Di Pietro, che era il nostro ospite alle 6.30. Ma attenzione, perché Silvio Berlusconi dovrà risarcire Antonio Di Pietro. Così scrive il Messaggero con Simone Canettieri a pagina 11. La vicenda era legata a un vecchio comizio elettorale nel quale Berlusconi aveva accusato Di Pietro di essersi laureato grazie ai servizi segreti. È partita la querela di Di Pietro, querela che è stata ieri rimessa dallo stesso Di Pietro, quindi è stata tolta a fronte dell'impegno da parte di Berlusconi di risarcirlo con una cifra che è top secret. Questo scrive il Messaggero. Segniamoci subito Lorenzo Nespoli, chiamare Di Pietro la prossima volta a chiedergli quanti soldi ha fatto sganciare al Berlusca per questa vicenda. Vabbè, siamo al momento dell'articolo che ci fa tenere le mani sul volante se siete alla guida. L'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata, ed è questo, riguarda la visita di domani di Renzi a Mosca. Il Fatto Quotidiano con Wanda Marra racconta pagina 10, Renzi si traveste da Putin, a Mosca niente domande. Ha fatto sapere Yuri Ushakov, consigliere diplomatico del Cremlino, che la parte italiana della missione ha chiesto che non ci siano domande alla fine della conferenza stampa con Putin da parte dei giornalisti. C'è ovviamente l'enfasi che sarà posta sulla situazione della crisi in Ucraina, ma ha fatto sapere, questo almeno dicono dal Cremlino, che Renzi e il suo entourage ha detto le domande sono da evitare da parte dei giornalisti, il rischio di sentirsi probabilmente in imbarazzo, soprattutto se qualcuno chiedesse conto dell'omicidio Nemtsov. Insomma, e quindi dice il Fatto... meglio non chiedere nulla. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan. Beh, siamo al top. Va bene, grazie caro ascoltatore. Allora siamo pronti ancora alla lettura dei giornali. Come detto parleremo di scuola noi alle 8.15 perché c'è un colpo di scena. Oggi, come direbbe il caro vecchio Mike... oggi era previsto il decreto legge sulla buona scuola, ma era previsto proprio da tutti, ma da tutti, anche dal ministro all'istruzione Stefania Giannini, che infatti quando ha saputo all'ultimo momento che salta il decreto, perché così ha deciso Matteo Renzi, dicendo tra l'altro ai suoi, come racconta Repubblica a pagina 10, non siamo dittatorelli e dunque la riforma farà un iter più lungo in Parlamento con un disegno di legge. Ebbene, Stefania Giannini, racconta sempre Repubblica nel retroscena di Corrado Zunino, ha detto sono basita. A chi le annuncia ieri la novità maturata in meno di 3 ore risponde avevamo messo a posto tutto con un lavoro di cesello faticosissimo, è sconcertata e anche infastidita, fa sapere Repubblica al ministro Giannini, ministro che ha provato a uscire dall'accerchiamento del PD aderendo a quel partito. Sapete che ha lasciato Scelta Civica da poco, ha già conosciuto a settembre le ire del Premier, quando la buona scuola non era neppure un librone ben rilegato e Renzi voleva riservare a sé ogni anticipazione. Da allora non si è mai opposta alle decisioni del Presidente del Consiglio. Come per esempio quando è stato sostituito il sottosegretario Roberto Reggi con Davide Faraone, ma ora si dice sconcertata. Ha saputo alle 6 di ieri sera, con uno scambio di SMS, che non c'è più il decreto, ma ci sarà un disegno di legge. Il timore di Stefano Giannini è questo: qui saltano le assunzioni, il primo settembre per stabilizzare i docenti, metterli a ruolo, costruire l'organico funzionale di ogni istituto ci vogliono mesi, non riusciremmo a farcela neppure se il Parlamento approvasse tutto entro l'estate. Eppure dal decreto legge si passa al disegno di legge. Sono basita, è il titolo del retroscena di Repubblica, frase affidata al ministro dell'istruzione Giannini. Qual è uno dei nodi? È uno dei nodi, è quello che affronteremo anche noi, sono i finanziamenti, o meglio gli sgravi fiscali a chi sceglie le scuole paritarie. È uno dei nodi, insieme a quello dei precari, ovviamente, i precari da assumere. Sulle paritarie c'è una pagina intera del Fatto Quotidiano, pagina 8, dopo che una serie di parlamentari, con una lettera pubblicata su Avvenire nei giorni scorsi, ha chiesto a Renzi appunto sgravi a chi sceglie le scuole paritarie. Oggi Marco Palombi sul Fatto Quotidiano inizia così: suonano metaforicamente le campane delle mille chiese di Roma, dai conventi dentro e fuori le mura salgono al cielo le grate preghiere dei religiosi, nelle parrocchie si benedice San Matteo, ma non l'evangelista, ma Renzi, che oggi porta in Consiglio dei Ministri il decreto sulla buona scuola. In realtà sarà un disegno di legge. Perché tanto giubilo cattolico? È semplice: nella bozza del Consiglio dei Ministri c'è questo passaggio che prevede una sorta di nuovo buono scuola sotto forma di detrazione fiscale del 22% fino a un massimo di 4.000 euro per alunno per chi iscrive i suoi figli a una scuola paritaria. Andasse così sarebbe un'enorme defiscalizzazione a favore delle scuole non statali, che poi sono in larga maggioranza cattoliche. C'è anche un commento di Alex Corlazzoli, che sarà nostro ospite alle 8.15 insieme all'onorevole Simona Malpezzi del Partito Democratico, che ha appoggiato questa defiscalizzazione chiedendola a Matteo Renzi. Discuteremo di questo dalle 8.15. Tra l'altro, a proposito di scuola, c'è una proposta invece che finisce sul Giorno, come su tutti gli altri giornali, del ministro Franceschini, ministro della Cultura, che propone di studiare i testi dei cantautori a scuola. Lo ha fatto ieri ricordando, e tra l'altro cantando anche insieme a Gianni Morandi, per ricordare la scomparsa di Lucio Dalla. A 3 anni dalla morte di Lucio Dalla, ha detto Franceschini: penso che alcuni cantautori, non so, Guccini, De André, De Gregori, Lucio Dalla stesso, ovviamente facciano parte della storia d'Italia e quindi debbano essere studiate le loro canzoni, i loro testi nelle scuole. Il commento di Guccini è: forse arriva con un po' di ritardo, visto che in alcune scuole già studiano i miei brani. Posso confermare, anche mio figlio ha imparato I treni a vapore di Ivano Fossati. Comunque, vabbè, questa è la proposta del ministro Franceschini. Ma veniamo alla politica in senso stretto. La politica si concentra su due grandi tematiche: la vittoria alle primarie della Regione Campania da parte di Vincenzo De Luca del PD, con un piccolo problema, che De Luca è condannato in primo grado per abuso d'ufficio, e se dovesse essere condannato in via definitiva, ma già adesso per la verità, scatta la legge Severino sulla incompatibilità. Quindi immaginate un governatore che dovesse candidarsi a governatore, dovesse vincere la campagna in Regione Campania e poi non può governare per la legge Severino. E allora che si fa? De Luca dice: farò tutti i ricorsi del caso. Anche quando è decaduto da sindaco di Salerno ha fatto ricorso, è stato rimesso in piedi, poi è ridecaduto, insomma cose molto all'italiana. Renzi giura Repubblica, a pagina 2 dice: io non cambierò assolutamente e per nessun motivo la legge Severino. Questa è la posizione di Matteo Renzi, nel retroscena che trovate a firma Goffredo De Marchis, per nessun motivo e non esiste alcuna possibilità di un intervento legislativo per modificare la legge Severino. Nessuno chieda di cambiarla. Questa è la posizione di Palazzo Chigi. In realtà, se uno va sul Fatto Quotidiano, scopre a pagina 3 che c'è una legge già pronta, già depositata in Parlamento. L'ha depositata, guarda caso, un esponente di Salerno del Partito Democratico, è l'avvocato Bonavitacola, considerato dal Fatto Quotidiano braccio destro di De Luca, e racconta Paola Zanca sul Fatto Quotidiano: nei cassetti della Camera c'è già la legge. È una legge, un asso nella manica, che toglie l'abuso d'ufficio come reati che determinano la sospensione e la decadenza delle cariche elettive. Insomma, si toglie il problema alla radice, visto che lui, De Luca, è stato condannato per abuso d'ufficio. Ora, andrà avanti, passerà questa legge Bonavitacola, lo scopriremo. Certo, De Luca è uno che non si fa intimorire, come racconta Marco De Marco a pagina 9 del Corriere della Sera. De Luca, ecco, conosciuto come lo sceriffo di Salerno, è uno al quale non può essere chiesto di fare un passo indietro per un semplice motivo, che lui fa quello che dice lui, punto. De Luca è quello che definì Luigi Cesaro, Gigino a Purpetta, lo sterminatore di congiuntivi, è colui che definì Gasparri un pinguino di razza, è colui che disse di Grillo un saltimbanco che racconta idiozie, è colui che dice di Marco Travaglio vorrei incontrarlo per strada al buio. Ecco, questo è Vincenzo De Luca, no? Tante volte è stato nostro ospite, anche è uno che parla così. Dall'altra parte invece c'è l'altro partito che freme molto, è la Lega, con la questione Salvini-Tosi, e la vedremo tra un attimo, ma prima voglio salutare un grande Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, tutta questa blandirmi perché oggi cosa hai ricevuto? No, perché ti affiancavo appunto anche qui a qualcuno che ha qualche problema giudiziario. De Luca, allora, non vorrei... Ma questo è tutto un faldone che sta tenendo da parte il mio avvocato, caro Alessandro. Invece, buongiorno, c'è molta attesa oggi, 18:30, sai cosa succede? Non c'è una partita di Europa League, stai tranquillo. No. In ogni caso saresti stato tranquillo. Maledetto. No, c'è alle 18:30 convocato il Consiglio dei Ministri, esatto. Però, come riferiamo sul Sole, dovrebbe esserci la riforma della scuola, ma non sappiamo come. Cioè, mettiamo un decreto legge, mettiamo un disegno di legge, e lì saranno che il sì e il no nel capo mi tenciona, come diceva il poeta. Quindi chissà quale sarà lo scopriremo solo non vivendo male 18:30, e poi naturalmente ne riferiremo sul Sole 24 ore domani. Invece oggi volevo dirti, i due urini li hai portati perché c'è da fare un terzo salvataggio per la Grecia, così dice Beda Romano, cioè abbiamo già dato, basta per la Grecia, basta. Possiamo andare, faccio il tedesco. Guarda. Faccio il tedesco. Leggi Beda Romano oggi, sono 24 ore che ti spiega tutto, perché ci sono delle difficoltà, insomma, non è che possiamo lasciare lì, anche perché è anche nostro interesse, ma devi leggere Beda Romano per seguire. Se poi tu li avessi a Monaco, sappi che da ieri c'è l'intesa, e ne parliamo in norme e tributi, quindi c'è l'intesa, oramai il fisco ti vede, quindi tanto vale che tu ti prepari a raccogliere lì. Scusa, da farti una domanda, hai mica lì tra i giornali il decreto sul QIR, con la Q, naturalmente. Fammi vedere un attimo. No, perché, ma tu sai cos'è il QIR, vero? Non è che stai cercando così a casaccio in modo... nello sport? No, è il decreto sull'anticipo del TFR in busta, siccome non si trova, non vorrei che fosse finito lì da te ai giornali. Vabbè, se lo trovi faccelo sapere. Veramente lo aspettavamo. Te lo porto al bar. QIR con la Q. Ecco, grazie, ci vediamo poi al bar col decreto. E poi, già che devi cercare, guarda anche come ultima cosa la pagina sugli amministratori di condominio, perché oggi la pagina di condominio per una serie di chiarimenti. Oggi è martedì, esatto, e c'è il condominio. Ci sono una serie di chiarimenti molto importanti del sottosegretario sulla formazione degli amministratori. È arrivato l'Arrotino, Alessandro Milan, l'Arrotino dell'informazione. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino. Questa è la migliore, è la migliore di tutte, lo dico sempre, lo so, lo so. Tra l'altro, donne, con questa sigla ci faremo qualcosa, partirà una nuova iniziativa, una nuova rubrica dalle 8.45, non questa settimana, però l'annunceremo già sul lavoro. Vorremmo sapere che lavoro fate, vorremmo sapere e vorremmo invitarvi a raccontare il vostro lavoro in onda, ma vi daremo tutti i dettagli più avanti. Allora, come dicevo prima, c'è Maretta nella Lega, almeno dal punto di vista ufficiale. Salvini ieri col Consiglio federale ha chiuso la questione Tosi in Veneto, e cioè ha detto se hai la tessera della Lega non puoi avere la tessera della fondazione, e Tosi ha fatto una fondazione in Veneto, quindi o stai nella Lega o stai nella fondazione, hai 7 giorni per decidere. La linea è tutti uniti con Zaia candidato in Veneto. In realtà, se si leggono i retroscena, giovedì ci sarà un vertice decisivo nella regione Veneta in cui Tosi potrebbe consumare la rottura con la Lega. Il retroscena, per esempio, di Rodolfo Sala, pagina 6 di Repubblica, è questo: l'ira del sindaco. Su di me hanno fatto una porcata. Prendiamoci pure una pausa di riflessione, ma a queste condizioni io spacco con la Lega. Questo avrebbe confidato Tosi ai suoi più fedeli. La fondazione Ricostruire il Paese. Non posso essere più con la tessera, è micidiale questa notizia. Mancano solo i colpi di frusta. Insomma, un Tosi che, a detta da quelle che sono dichiarazioni non ufficiali, ma dichiarazioni ufficiose rilasciate tra i membri del suo entourage, è pronto a rompere. Altri giornali giurano che è un Tosi pronto a lasciare la Lega. Sentite per esempio come titola La Stampa, pagina 4, alla fine Salvini licenzia Tosi perché è stato messo una sorta di commissario che però è stato chiamato mediatore, si tratta di Giampaolo Dozzo, a controllare che vada tutto come deve andare. Anche La Stampa è certa, a pagina 5, il sindaco deluso da Maroni ha tradito il nostro accordo, ora restare è più difficile. Maroni, che ieri era nostro ospite, aveva detto io lavoro per una ricomposizione, sta di fatto che questa ricomposizione, mi pare di capire, sia difficile avvenire, ma lo scopriremo in settimana. Voglio andare all'estero per raccontare, come raccontano i giornali, quello che è successo ed è visibile in un video. Io l'ho visto, questo video è impressionante, Los Angeles. Non so se vi è capitato di vederlo, 5 poliziotti che affrontano un clochard a terra, un barbone. A un certo punto si sente un urlo di uno di questi agenti che dice mi ha preso la pistola, e partono 5 colpi e lo freddano, proprio lo uccidono così sull'asfalto, tutto ripreso dalla telecamera. Trucidato da 6 agenti muore un clochard, questo è il titolo di pagina 20 di Repubblica, ma il Manifesto addirittura mette questa vicenda in prima pagina. Senza tetto né legge, e c'è la foto proprio del momento in cui i 6 poliziotti, che ora devono rispondere all'accusa di omicidio, ci sarà un'inchiesta, sparano a questo clochard. L'uccisione in strada, così titola anche il Corriere della Sera, dedica una pagina con Guido Olimpio. È come vedere per la 100ª volta un film, un gruppo di agenti, un uomo disarmato, la colluttazione, gli spari, la morte di un barbone, l'indignazione, gli esperti che commentano in TV, le richieste di indagini serie, distinguo, i video che documentano l'episodio su YouTube, cambiano le città, i protagonisti. Non l'America, questa volta è Los Angeles, e a documentare il fatto almeno un paio di filmati registrati da angolazioni diverse. Alcune pattuglie della polizia intervengono alle 12 a San Pedro Street, sono chiamati da qualcuno nelle vicinanze, sembra ci sia una lite tra i senza tetto che popolano il marciapiede, tra cartoni, stracci, teloni. Vicino a uno di questi c'è un uomo, lo conoscono tutti come Africa o Camerun, soprannome che indica vagamente il suo luogo di origine. Arrivano 6 poliziotti, compreso un sergente, che cercano di bloccarlo. Lui resiste, comunque non obbedisce come dovrebbe. Gli agenti lo afferrano con la forza, gli sparano con la pistola elettrica. lo immobilizzano, ma l'uomo non cede. A un certo punto si sente una voce di un agente che urla: ha preso la mia pistola, e risuonano gli spari, almeno 5, e viene così ucciso. Insomma, trovate tutti i dettagli e le polemiche che ne sono conseguite. Polemiche ci sono anche in Russia, dove noi andremo ospitando Savik Schuster, giornalista che ci racconterà quali sono le novità dopo l'uccisione di Boris Nemtsov, leader dell'opposizione a Mosca. Ora pare che ci si concentri davvero sulla fidanzata Anna Duritskaya, la modella ucraina che secondo gli agenti di sicurezza russi poteva addirittura conoscere il killer. Insomma, tutti si concentrano sul suo ruolo. Addirittura raccontano che potrebbe essere sottoposta alla macchina della verità. Le due auto, la fidanzata, le telecamere. Questo è il titolo del reportage di Repubblica, pagina 16. L'amica del leader dell'opposizione dice: non ho visto il killer, torna in Ucraina, ma certo molti sospettano che abbia addirittura avuto un ruolo in questo omicidio misterioso, e questo anche qui lo scopriremo, o come succede spesso in Russia, non si scoprirà mai. Va bene, il campionato di calcio ufficialmente finito, per la verità era finito già da un pezzo, ma con il pareggio a Roma tra Roma e Juventus rimangono 9 i punti di vantaggio della Juve, ma maledetti Gobbi. Quindi via libera Juve, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Il pari tiene lontano la Roma, più 9 con vista scudetto, e quindi scudetto fatto, speriamo almeno nella Champions League, che renda un poco di giustizia. Va bene, allora siamo alla chiusura, siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, ovviamente sempre a mio insindacabile giudizio. Oggi stravince Libero, che con Gemma Gaetani racconta in un'intera pagina, dopo la caduta di Madonna in un concerto, dopo l'odio da parte di molte donne nei confronti di Madonna, guardate questa pagina: donne che odiano Madonna ma le invidiano le chiappe. Ma chi se ne frega? Mattino. Quando sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Oggi vogliamo parlare di scuola, perché nel Consiglio dei Ministri approda il tema, o meglio la buona scuola, come la chiama Matteo Renzi. Ed ecco già che approda il Consiglio dei Ministri con una probabilissima sorpresa, perché salta il decreto legge e si sceglierà un iter più lungo, il disegno di legge da approvare in Parlamento. È un vero e proprio colpo di scena, se è vero che neppure il ministro all'istruzione Giannini ieri era stata messa al corrente di questa cosa. Secondo Repubblica, quando lo ha scoperto, si è detta basita e anche sconcertata. Questo almeno stando alle dichiarazioni oggi apparse su Repubblica. Quali sono i nodi che potrebbero far propendere il Premier per un disegno di legge invece che il decreto legge? Beh, uno dei nodi è quello che vogliamo approfondire oggi. Nel progetto Buona Scuola c'è una defiscalizzazione di fatto per chi frequenta le scuole paritarie. Si tratta di una defiscalizzazione, una detrazione fiscale del 22% fino a un massimo di 4.000 euro per alunno per chi iscrive i suoi figli a una scuola paritaria, dunque una scuola pubblica ma non statale. Le scuole paritarie in Italia sono 13.500, ci sono 1.000.000 di studenti in queste scuole, la maggior parte sono in scuole cattoliche, 740.000, quindi il 70%. Ci sono persone che dicono: ma come? Bisogna trovare 400 milioni per coprire questa defiscalizzazione. E poi è una questione che non va bene, perché se ci sono dei fondi vanno tutti dati alla scuola statale. C'è chi invece difende il diritto di iscrivere i propri figli nelle scuole paritarie e fa notare che se chiudessero le scuole paritarie lo Stato dovrebbe spendere 7 miliardi di euro in più. Il tema è interessante, so che riguarda tutti voi, magari state portando i figli a scuola, se volete chiamarci 800 24 00 24, intanto saluto il nostro cicerone scolastico, io lo chiamo così, Alex Corlazzoli, buongiorno Alex. Buongiorno Milan, buongiorno. Tra l'altro insegnante nella scuola primaria statale in provincia di Cremona. Saluto l'onorevole Simona Malpezzi del Partito Democratico che insieme ad altri 43 deputati ha firmato una lettera pubblicata da Avvenire domenica in prima pagina a chiedere a Renzi questa defiscalizzazione. È un'occasione da non perdere. Onorevole Malpezzi, perché ha firmato questo appello? Buongiorno, intanto io ho due figlie che vanno nella scuola statale, che è una scuola pubblica, come pubblica è la scuola paritaria, secondo la legge 62 di Berlinguer. È una scelta che ho fatto io liberamente come genitore, vorrei che tutti i genitori fossero in grado di scegliere se scegliere all'interno del servizio pubblico quello statale o quello paritario. Oggi non è così, oggi sostanzialmente nella scuola paritaria possono accedere chi ha una situazione economica che glielo consente. E questo non garantisce il pieno adempimento della legge 62, della cosiddetta legge Berlinguer, non garantisce la libera scelta della famiglia e non garantisce il pluralismo dell'offerta di istruzione. Cioè, senza una defiscalizzazione la scuola paritaria costa troppo, è accessibile solo ad alcune fasce di reddito di italiani. Certo, e non diventa più la scuola di quartiere come potrebbe essere. E poi ricordo anche un'altra cosa, lo ricordo più che da parlamentare, da una che ha avuto un'esperienza grande nei territori come amministratrice locale. Le scuole paritarie per la maggior parte, il 45%, coprono il 45% della scuola dell'infanzia. Che cosa significa? Che lo Stato si occupa della scuola dell'infanzia solo per il 55%. Significa che noi non avremmo posti nelle scuole di infanzia se noi non aiutassimo le scuole paritarie. Lei tra l'altro, ma certo, onorevole Malpezzi, lei ha detto la mia è una scelta laica. Oggi però le leggo il titolo del Fatto Quotidiano, infatti ci ha detto ha due figli, vanno nella scuola statale. Il titolo non fanno neanche religione a scuola, però le leggo il titolo del Fatto Quotidiano: sgravi a chi sceglie le scuole paritarie è la breccia di CL. Il 70% delle scuole sono cattoliche, questo è un dato del ministero. Ma dire che sono cattoliche non significa dire che sono confessionali, significa dire che sono... La linea che è caduta è su un treno, ma adesso la recuperiamo. Alex Corlazzoli firma anche lui. Ieri avevi scritto un pezzo molto interessante sul fatto che le scuole siano sdigitalizzate, mi si passi questo termine, che hai usato anche tu per la verità, cioè sono le scuole italiane indietrissimo per quel che riguarda la copertura della banda larga. Le scuole italiane, sul Fatto Quotidiano si racconta, sono anche spesso vanno a pezzi le scuole statali. Che cosa c'è che non va nel discorso che faceva l'onorevole Malpezzi e della defiscalizzazione delle paritarie per garantire a tutti la libertà di poter scegliere? Ma intanto io ho la sensazione che l'onorevole Malpezzi, Milan, si sia dimenticata la nostra Costituzione, dove insomma c'è scritto chiaramente l'articolo 34, insomma, anzi l'articolo 33, che enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Ora mi viene veramente difficile pensare che si possa coniugare questa detrazione oggi in una scuola dove si fa fatica, dove i genitori invece sono costretti a colmare quelli che sono i tagli che sono stati fatti in questi anni alla scuola con i contributi volontari. Da una parte abbiamo una scuola pubblica dove i genitori sono costretti a mettere fior fior di soldi per poter far fare ai ragazzi l'attività quotidiana, semplicemente per avere le fotocopie, semplicemente per poter avere quelli che sono i servizi di base. Dall'altra abbiamo invece una scuola, per la maggior parte, come sottolineavi anche tu poco fa, cattolica, e io parlo dalla Lombardia, dalla provincia di Cremona, prevalentemente cellina, dove io non ho mai visto entrare sicuramente in queste scuole una ragazza col velo. Mi piacerebbe far vedere l'onorevole Malpezzi andare insieme a lei a fare questo tour nelle scuole, vedere quanti migranti ci sono nelle scuole private. Da sempre, diciamocelo chiaramente, la scuola privata, io la chiamo privata, non la chiamo paritaria appositamente, nonostante non si debba dire così, però dici la vuoi chiamare, vuoi proprio chiamarla privata, perché è la verità, perché non è paritaria d'un bel niente. niente. Se fosse paritaria avrebbe lo stesso modo, cioè la pari avrebbe un tasso di migranti. Ma l'onorevole Malpezzi proprio ci dice: se noi non garantiamo l'accessibilità con la defiscalizzazione, non è appunto paritaria, perché si fa una selezione all'ingresso, chi ha soldi si può permettere di mandare i figli lì, e invece nel progetto di legge dovrebbe essere una parità a tutti i livelli. Il problema è che chi non ha soldi non riesce comunque a mantenere le rette che ci sono nella scuola paritaria. Ma invece vederla da questo aspetto, cioè lo Stato, lo ha detto anche il ministro Giannini, se si chiudessero queste scuole paritarie, lo Stato dovrebbe pagare insegnanti, strutture, quindi spendere 6 miliardi, secondo questi parlamentari che hanno firmato la lettera sono 7 addirittura i miliardi che lo Stato spenderebbe. Cioè è un risparmio la presenza delle scuole paritarie, o no Alex? Allora c'è un dato che è quello sicuramente per la quale io sono d'accordo con chi in parte sostiene le scuole paritarie, che colmano un vuoto lasciato dalla scuola pubblica soprattutto per le materne paritarie. Mi viene in mente il caso di Bologna, sul quale si è discusso tanto con un referendum famoso che tu ricorderai sicuramente. Insomma, senza le materne paritarie il 30% dei bambini non avrebbe accesso alla scuola. Mm-hmm. Allora ragioniamo sulle materne paritarie, ma non possiamo ragionare per esempio sulle scuole secondarie. Mm. Oggi lo Stato è in grado di assicurare la scuola secondaria soprattutto a qualsiasi ragazzo, e non ha bisogno di scuole che colmino alcun vuoto per quanto riguarda le scuole secondarie. Quindi insomma, traduciamolo così: se ci sono dei fondi vengano messi nelle scuole statali e non private, come le vuoi chiamare tu. Onorevole Malpezzi è stata in una scuola privata, Corlazzoli le vuole definire private, non gli piace il termine paritario. Io invece continuo a definire paritarie nelle scuole ci sono stata, ho anche insegnato per alcuni anni in una scuola che non era assolutamente un diplomificio, che si atteneva a quelle che erano le regole della parità, e sono le stesse scuole paritarie. È la linea telefonica, così caduta. Quando si ha sui treni è caduta. Sei tu, Alex, sei tu che gli fai le... un boicottaggio all'onorevole Malpezzi. No, non diciamolo neanche per scherzo. Tu tra l'altro oggi ricordi sul Fatto Quotidiano che è stato D'Alema il primo a sdoganare questa parità di fatto, Sì, va detto, insomma, sempre stato il governo di centro-sinistra protagonista soprattutto di questo, D'Alema con la benedizione di Berlinguer, e poi si pensò pure Fioroni, devo dire, nel 2007 a andare a incrementare di nuovo quello che è la Moratti, quando a modificare della legge, che è tra i firmatari. Ora diciamo chiaramente, anche perché così lo sappiamo, i governi di centro-sinistra italiani sono a favore delle scuole, come palle dico io, private, o come dice l'onorevole Malpezzi. Ma l'aspetto pragmatico, cioè che facciano risparmiare dei soldi, non fa breccia nel tuo cuore indurito da insegnante di scuola statale? Non fa breccia, perché io voglio vedere, un esempio molto pratico: vado tutti i giorni a pranzo in una trattoria di Cellini che mandano tutti i loro figli alla scuola paritaria di Celle. Ora io vedo veramente una questione confessionale anche, sì. Non posso veramente tollerare. Come fai a sapere che è una trattoria di Cellini? Ce l'hanno scritto perché fuori. Perché lo dicono apertamente, perché sono veramente dicono. Fedeli, e lo quindi dicono. Ma io sono super parte, se si mangio bene vado anche nella trattoria Cellina. Ma ora, al di là della mia trattoria, mi preme sottolineare anche due altri fattori, Milan, della questione. Secondo l'OCSE, per esempio, la qualità, parliamo che della qualità di queste scuole private, come dico io, la qualità in Ungheria, Indonesia, Giappone, Messico, Nuova Zelanda e Regno Unito è molto meglio nelle scuole pubbliche rispetto a quelle che sono le scuole paritarie o private. E un altro dato: quanti sono gli irregolari nel settore dell'istruzione privata? L'Istat, non Corlazzoli, qualche anno fa aveva calcolato che erano più di 17.000. Allora Alex, facciamo così, vediamo se il treno ci aiuta, onorevole Malpezzi. Speriamo. No, perché l'Olanda, dove per esempio lo Stato gestisce solamente il 27% delle scuole e il resto sono paritarie per libera scelta, tra i 10 paesi all'interno dell'OCSE, quindi all'interno della classifica dove la preparazione è più alta. Allora a questo punto, se dobbiamo sfidarci sui dati, li mettiamo tutti, ed è uno degli unici paesi europei a essere presente in una posizione così alta. Il quadro europeo comunque ce lo dice chiaro, il quadro europeo è tutto per la parità, la laicissima Francia ha la parità assoluta che va dalla gestione degli edifici scolastici che dagli investimenti sugli insegnanti e da tutto il resto. Sì. Allora, io direi che togliamo il pregiudizio e andiamo a vedere che forse l'obiettivo comune è quello di trasformare le scuole che possono essere d'élite, chiamatele come volete, in scuole accessibili a tutti, per garantire un'offerta formativa che se la sceglie il genitore, sì. Perché tutti mi citano l'articolo 33 della Costituzione, sì. Cosiddetto senza oneri dello Stato, nessuno si ricorda però del 30, che dice così che spetta la famiglia anche l'ha fatto anche figli. Corlazzoli di citare l'articolo 33 quando la linea era caduta. Fatemi sentire degli ascoltatori, perché come sapevo su questo tema ci sono tantissime telefonate. Stefano da Vicenza, buongiorno Stefano. Siate brevi, vi chiedo, e rispondete più che altro. Stefano, buongiorno. Niente. Roberto da Torino. Roberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, breve, una semplice cosa. Io dico questo, la scuola è importantissima. Sì. Ma com'è possibile che mia sorella debba portare a scuola per i suoi figli carta igienica, pennarelli, carta... Statale? Scuola statale? Statale. Sì. E poi ci diamo i soldi alle paritarie. Io mi chiedo solo questo. E questo è il tema che dice anche Corlazzoli. E ripeto, io non è che lo voglio dare come dato, non ho un'idea compiuta su questo. Il dato, però, tenetelo bene in considerazione. Se chiudessero le scuole paritarie, lo Stato dovrebbe sborsare 7 miliardi per gestire queste scuole, insegnanti, eccetera. Quindi, ecco, mettetelo lì e elaboratelo come dato. Teniamolo in considerazione nel dibattito. Fabrizio da Bologna, buongiorno Fabrizio. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo dire questo, io ho un'esperienza diretta relativamente al fatto che la figlia della mia compagna frequenta una scuola paritaria, sì. Secondaria. Sì. Allora, io sottolineo un aspetto che è quello della selettività di queste scuole. Siccome lo vedo in prima persona, ragionano su logiche economiche, non c'è assolutamente selettività. Cioè io ogni tanto faccio dei vedo sulla preparazione, cioè fanno passare tutto, promuovono tutti perché sono soldi, lei dice. Perché la logica è quella economica, non è più una logica formativa. Cioè mi portate dei soldi e quindi io devo farti promuovere. Pago una retta, devo promuovere. A conseguenza a fine anno pagando fior di quattrini non voglio assolutamente problemi. Quindi va bene, non le piace questo tipo di impostazione. Grazie Fabrizio. Vorrei sentire Stefano, l'abbiamo recuperato, che mi dicono aveva una figlia che frequenta la scuola paritaria, ci ha chiamato, sì. Stefano. Buongiorno. Buongiorno. Paritaria di che cosa? Primaria, secondaria? È una scuola dell'infanzia. Dell'infanzia. Nel mio comune ce ne sono due scuole dell'infanzia paritarie più una scuola comunale. Nelle paritarie sono parrocchiali, però ci sono bambini di tutte le estrazioni, di tutte le religioni. Se qualcuno non riesce a pagare la retta, non la paga, e i genitori si preoccupano di aiutare anche le persone o gli extracomunitari. In questo caso, lei da esperienza concreta sarebbe favorevole dunque a una defiscalizzazione per le scuole paritarie? Non necessariamente, nel senso che lo Stato perlomeno, se continua a dare i fondi che dà, fa già qualcosa. Almeno. Poi aiuta naturalmente chi ne ha bisogno. Chi è contrario a questo principio dice che i fondi alle scuole paritarie sono pochi, sono solo l'1% dei fondi che lo Stato investe nella scuola. Però Corlazzoli, qui insomma alcuni pareri, siamo in conclusione, anche perché tu devi andare a insegnare, mi sembra di capire. Esatto. Mi sembra di capire tra un attimo, anzi sono le 8:33, già 3 minuti di ritardo sulla campanella. Che tipo di... Intanto chiudiamo su questo tema, succederà un decreto o un disegno di legge? Cos'è? Renzi dice non vogliamo apparire dittatorelli e quindi faremo il disegno di legge. Ti stupisce questo cambio di marcia alla fine? No, assolutamente. Io avevo scommesso che Renzi oggi non avrebbe fatto il decreto e che avrebbe in qualche modo trovato la strategia per rinviarlo. Renzi non assumerà i 150.000, ma questo è un altro discorso, ne parleremo un'altra puntata, sì. Perché non ci sono in realtà le possibilità per assumere i 150.000, ha fatto troppe promesse e quindi andrà con un disegno di legge che andrà a chissà quando, sicuramente dopo l'estate, e a settembre 2015 Corlazzoli sarà ancora una volta precario anziché assunto. Sulle scuole paritarie pubbliche, lasciami solo fare una battuta proprio prima di andare in classe. Quando in Italia si investirà il 13% come a Cuba, e non sono un fedele di Fidel Castro io assolutamente, ho visto le scuole cubane però con i loro limiti, con i loro veramente molti limiti, ma si investirà il 13% anziché il 4% del PIL, allora potremo sicuramente parlare anche di qualche finanziamento in più alle scuole paritarie. Allora ovviamente buona scuola, buon insegnamento. Onorevole Onorevole Malpezzi, per concludere, è stupita lei del fatto che non si sceglierà il decreto ma il disegno di legge? Questo è un aspetto politico, eminentemente politico. Io penso che da qui al Consiglio dei Ministri ci si stia ancora lavorando per quelle che possono essere le soluzioni migliori. Qui tutti dicono un disegno di legge, che non esclude però il fatto che possa essere affiancato anche da un decreto per una parte di quelli che sono i provvedimenti, e affiancato ancora dalla legge delega, per cui non si è parlato di eliminare quello che è il percorso che è stato fatto finora. L'investimento è a bilancio, è in legge di stabilità, sono 4 miliardi a compimento. Io sono assolutamente convinta che invece si andrà avanti nell'ottica di quella che è l'autonomia. Anche perché guardi che il ministro Giannini ha detto che se non si fa il decreto, i precari a settembre non c'è tempo proprio per assumerli. C'è un problema di tempistica, ma infatti nessuno ha detto che questa cosa non verrà fatta. Ieri sera il presidente Renzi ha dato questa comunicazione, che è anche uno spazio da uno spiraglio davvero di dialogo e di discussione all'interno del Parlamento, che non fa male assolutamente, soprattutto su un tema che è così caldo. Ripeto, noi siamo, possiamo essere preoccupati per la tempistica, ma sappiamo che il presidente la conosce e quindi è informato. Cioè, potrebbe, i soldi ci sono. Potrebbe esserci come soluzione quella magari di estrapolare, fare un decreto solo per la stabilizzazione dei precari e invece lasciare tutte le altre tematiche in un disegno di legge. Potrebbe essere questa una soluzione. Staremo a vedere il Consiglio dei Ministri oggi alle 18.30, credo. Intanto io ringrazio anche l'onorevole Simona Malpezzi del Partito Democratico per essere stata con noi. Siamo in 3 minuti di pubblicità, poi magari c'è spazio anche per qualche ascoltatore e parleremo anche di quello che è successo in Russia, e domani Renzi è in Russia e parleremo dell'omicidio Nemtsov. 24 mattino. Siamo qui ancora, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8.41 minuti dopo aver parlato di scuola, oggi vedremo le novità, vogliamo un po' allargare gli orizzonti, andare all'estero, anche perché domani il Presidente del Consiglio Matteo Renzi sarà in Russia, sarà a Mosca a parlare con Vladimir Putin. A Mosca però non si parla d'altro da 2 giorni, 3 giorni di che cosa? Che dell'omicidio di Boris Nemtsov, cioè uno dei leader dell'opposizione a Putin. Voglio salutare il collega conduttore sulla TV ucraina Schuster del programma Schuster Live, e si tratta di Savik Schuster. Buongiorno Savik, ben ritrovato. Buongiorno. Allora, non si parla d'altro, è vero, a Mosca di questo omicidio di Boris Nemtsov? Ma a Mosca perlomeno tra la gente di valori liberali, di valori democratici, non si parla d'altro. È vero. Non si parla d'altro. Ecco, leggo sui giornali italiani che gli ultimi sviluppi darebbero addirittura, proprio in maniera clamorosa, sotto torchio, usiamo questa espressione, la fidanzata di Nemtsov, come se fosse stata quasi una collaboratrice o potesse addirittura conoscere i killer di Nemtsov. È una via che ha una sua praticabilità? Ma io non conosco personalmente la ragazza, conosco le persone che stanno a lei molto vicine, mi dicono di una persona molto brava, molto onesta, una ragazza per bene, poi non posso dire. Per quanto riguarda tutte le insinuazioni di quelli che conducano l'inchiesta, io penso che cercano di deviare in tutti i modi l'opinione pubblica, di confonderla. Io non parlerei adesso tanto di chi è stato il colpevole, perché per me è assolutamente evidente che questo clima di violenza che ha creato il Cremlino a Mosca e in Russia in generale, in Ucraina pure, gli squadristi che sono incontrollabili dappertutto e che fanno quel che vogliono, legalizzati dal Cremlino, io penso che... Cioè il mandante sarebbe Putin, il mandante morale, stai dicendo questo? Ma sa, io veramente, se io devo trovare un parallelo storico, io vedo l'assassinio di Giacomo Matteotti nel 24, ecco, cioè è un assassinio politico, e io ricordo a tutti il discorso di Mussolini alle Camere il 3 gennaio del 25, quando lui ha detto che io e solo io mi assumo la responsabilità morale, storica, politica di quello che è accaduto, che se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere, questa è considerata la nascita della dittatura, del fascismo. Ecco, io penso che più o meno la stessa cosa è accaduta in Russia, con una differenza che Putin l'ha detto molto prima dell'assassinio di Nemtsov. Il problema è che domani c'è Renzi, c'è il nostro presidente del Consiglio. Andrà, pare, a deporre un fiore lì dove è stato ucciso Nemtsov, e poi si parlerà di che cosa? Di approvvigionamenti energetici, della crisi Russia-Ucraina con Putin oltre che con Poroshenko. Va bene? Mettiamo un fiore, va bene così? Ma mettiamo un fiore, sì, è un gesto simbolico importante. C'è Renzi, è un politico giovane, in fondo c'è Nemtsov, ha iniziato la sua carriera politica più o meno come Renzi, con delle cose molto, cioè, molto brusche, molto, cioè, riformatorie, se vogliamo, da governatore a Nizhny Novgorod, no? È stato un politico molto molto progressista Nemtsov, in questo senso per Renzi dovrebbe essere un'occasione di dire, io credo, no, che i valori democratici, i valori liberali che Europa, cioè, così, cioè, nel senso, manifesta ovunque e sempre, sono stati violati in Russia in una maniera molto, ma tanto molto brusca. Putin dice che lui non c'entra niente, anzi che è una provocazione, quindi se anche Renzi dovesse condannare l'omicidio, Putin può dire, beh, lo condanno anch'io. Ma Renzi può chiaramente condannare, no, non può, deve condannare l'omicidio, solo che Renzi non deve fare una persona, un politico ingenuo in questo senso. Io penso che tutti capiscano da dove vengono le origini di tutta questa violenza. C'è oggi un giallo, o meglio, il Fatto Quotidiano racconta che dall'entourage del Cremlino avrebbero chiesto, gli italiani ci hanno detto che non deve essere fatta alcuna domanda da parte dei giornalisti alla fine della conferenza stampa Putin-Renzi. Le pare verosimile questo tipo di richiesta da parte italiana e così esplicitata dall'entourage del Cremlino? Ma guardi, io così ci posso credere che il Cremlino non abbia voglia di rispondere a queste domande, che ormai, cioè, io penso che non ci sono risposte. Sì, per la verità dicono che siamo noi che gli abbiamo detto che di non far fare domande, cioè sarebbe una richiesta italiana. Questa sarebbe una richiesta un pochino a dir poco strana, cioè nel senso, cioè, imporre alla Russia le regole che la Russia segue già da diverso tempo sarebbe un po' bizzarro, ma spero di no, veramente, perché direbbe tante cose sulla politica estera italiana. L'ultima domanda è questa, Schuster: si scoprirà mai chi ha ucciso Nemtsov, oppure entrerà nell'elenco di assassini, omicidi, antipotere in Russia di cui non si è mai saputa la verità? Io penso che la risposta credibile non sarà data, una risposta alla quale l'opinione pubblica russa, ucraina, europea in generale, americana crederanno. Io penso che questo non succederà, rimarrà un assassino misterioso con grandi conseguenze, io penso, dentro la società russa, e non solo, perché per dire che adesso in Ucraina, dopo questo assassinio, si cominciano a parlare che imminente è l'attacco contro la città di Mariupol, per esempio. Sì. Che qua l'aggressione e la violenza non ha più limiti. Quindi questo lo scopriremo, intanto vedremo domani come si comporterà anche il nostro Presidente del Consiglio in questa visita di Stato. Io ringrazio Savik Schuster per essere stato con noi, autore e conduttore di Schuster Live sulla TV Ucraina. 24 mattino. Lavoratori! Ebbene sì, cari ascoltatori, ebbene sì, non è che siamo ammattiti con questa sigla, ma sta per partire una nostra nuova rubrica. Oddio, rubrica, un nome terribile, cambiamo, un nuovo spazio. Parleremo di lavoro, dei vostri lavori. Fate un lavoro strano, un lavoro al contrario, innovativo, il lavoro del futuro. ho un lavoro che sta scomparendo. Donne, è arrivato. Fate un lavoro che pensate debba essere raccontato in onda? Scriveteci e noi chiameremo uno di voi in onda. Scriveteci a 24 mattino @radio24.it. Il vostro lavoro. Noi le aggiustiamo. Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas. Ciao Italia! Partiremo presto con questa nuova rubrica sul lavoro. Scriveteci a 24 mattino e radio24.it. Ma come sapete, noi concludiamo sempre con un ascoltatore che ci segue dall'estero. Oggi vogliamo riscoprire Gaetano da Dallas. Gaetano, buonanotte, buongiorno. Come stai? Sto bene, grazie. Gaetano è stato con noi settimana scorsa, fa l'architetto dei ricconi, l'abbiamo detto noi, a Dallas, in Texas, e ci hanno scritto in 3-4 architetti che ti hanno voluto contattare, ti hanno scritto poi? Sì, mi hanno scritto, sì, certo. Ci sono buoni affari? C'è buon business già? Vediamo. È un po' complicata. Come va? No, noi siamo rimasti affascinati. Cioè, tu sei lì a Dallas, in Texas, sì. E fai l'architetto soprattutto di case di un certo livello, Sì, solo quello, per dire la verità. Solo quello. Ma qual è la richiesta più tipica per una casa proprio da riccone? È un mercato diverso da quello italiano. Io ho lavorato in Italia 14 anni, quindi conosco la differenza. Qui, dunque, amano lo stile europeo. Ah. Quindi abbiamo case in stile country French, stile inglese, stile mediterraneo. Anche mediterraneo, più... È chiaro. Siamo italiani. Certo, tu Gaetano hai sempre detto io l'Italia la porto nel cuore. Che tipo di italianità metti nel tuo lavoro? Cosa proponi? Io sono cresciuto e ho studiato praticamente in un posto dove vivi architettura. Tu cammini per strada. Cioè dove? Dovunque, io sono nato in Friuli e cresciuto in Friuli, ma tu cammini per strada, vedi una porta di una casa antica, quella porta lì ha una storia, ha un disegno, ha qualcosa che qui manca. Ah, tu ti riferisci all'Italia in generale, cioè tu sei cresciuto nella patria dell'architettura, cioè l'Italia, esatto. E quindi tutto quello che tu puoi portare per lì è una novità per loro. Sì, esatto, perché sembra facile disegnare un arco, disegnare dei portici, ma per noi che ci passiamo ogni giorno, ci abbiamo passato ogni giorno, ci diventa automatico. Purtroppo noi non ci accorgiamo in che paese viviamo tante volte. Sì, questo è vero. Ce lo dicono in tanti di coloro che ci ascoltano all'estero. Dice sottovalutiamo tutte le nostre qualità. È vero, E invece... Non direi sottovalutare. Lo diamo per scontato. E invece lì manca. Per cui quando noi qui hanno le possibilità economiche di poter fare e riprodurre la stessa cosa. Ma nel senso, ci sono anche coloro che sono venuti in Italia in vacanza, magari in un viaggio, e poi dicono voglio quella cosa che ho visto là. Ma tu pensi che uno che costruisce la casa da 10 milioni di dollari non sia venuto in Italia, non sia andato in Francia? E ti chiede proprio le cose, magari cos'è la richiesta più bella che ti è arrivata? A dire voglio quell'arco che ho scovato a... Ma perché in Italia arrivano gli americani che sono ben educati e ben forniti di grana, molto spesso. Per cui sono anche molto competenti, perché hanno anche tempo per studiare. Certo. Vogliono esattamente, se non lo fai come vogliono loro... Non ti pagano. Esatto. E invece tu prima vanno in Italia, girano per il mondo e poi passano dal nostro Gaetano in Texas a Dallas a dire voglio la casa per ricconi così. Esatto. Gaetano, sei stato simpaticissimo, ti mandiamo un nuovo abbraccio, ovviamente in bocca al lupo per tutto. Ti abbiamo messo ancora una volta Dallas, ovviamente la sigla di Dallas. Concludo con te e ricordate, partirà la rubrica sul lavoro, scriveteci 24 mattino e radio24.it con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi. A domani 24 mattino.